Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. I moschettieri s'accostarono inchinandosi. Dietro li seguiva D'Artagnan. «Che diavolo!» continuò il re. «Voi quattro soli e sette guardie di sua eminenza messe fuori combattimento in due giorni. È troppo, signori, è troppo. Di questo passo sua eminenza sarebbe costretto a rinnovare la sua compagnia in tre settimane e io dovrei far applicare gli editti in tutto il loro rigore. Uno per caso può capitare, ma sette in due giorni, lo ripeto, è troppo, proprio troppo. Difatti, sire, vostra maestà vede che essi vengono contriti e pentiti a presentare le loro scuse. Contriti e pentiti. Disse il re. Non mi fido delle loro facce ipocrite. C'è laggiù soprattutto un tipo di guascone. Signore, venite qua. D'Artagnan, avendo capito che il complimento era rivolto a lui, si avvicinò assumendo l'aria più desolata possibile. Ebbene, cosa mi dicevate che era un giovanotto? È un bambino, Monsieur de Treville, un vero bambino. Ed è lui che ha dato quel colpo coi fiocchi a Jussac e quelle due belle stoccate a Bernajoux. Davvero? Senza contare, aggiunse Athos, che se non mi avesse sottratto dalle mani di Biscarat, non avrei certo l'onore di fare in questo momento la mia umilissima riverenza a Sua Maestà. Ma è proprio un diavolo in carne ed ossa, questo bearnese, per Giove, Treville, come avrebbe detto il re mio padre. Con un mestiere simile si deve bucare più d'un giustacuore e spezzare più d'una spada. E i guasconi sono sempre poveri, no? Sire, devo dire che nelle loro montagne non si sono ancora trovate miniere d'oro. Anche se il Signore avrebbe dovuto fargli questo miracolo per l'appoggio dato al re vostro padre. Questo significa che sono stati i guasconi a fare re anche me, vero Treville, visto che sono il figlio di mio padre? Ebbene, sia, non dico di no. La Cesnay, andate a vedere se frugando in tutte le mie tasche trovate 40 pistole. Se sì, portatemele. A quel tempo le idee d'orgoglio che ci sono oggi non erano ancora di moda. Un gentiluomo riceveva danaro dalle mani del re senza esserne minimamente umiliato. D'Artagnan intascò quindi le 40 pistole senza cerimonie, anzi ringraziando vivamente Sua Maestà. «Orsù», disse il re guardando il pendolo, «sono le 8:30, ritiratevi, perché vi ho detto che aspetto qualcuno alle 9. Grazie, signori, della vostra fedeltà. Posso contarci, vero?» «Oh, sire!» esclamarono all'unisono i quattro camerati. «Ci faremmo tagliare a pezzi, per vostra maestà!» «Bene, bene, ma restate interi, è meglio, e mi sarete più utili!» «Treville!» soggiunse il re a bassa voce mentre gli altri si ritiravano. «Siccome non avete posto nei moschettieri e visto d'altronde che abbiamo stabilito che per entrarvi occorra un noviziato, fate entrare questo giovanotto nella compagnia delle guardie di Monsieur de Cessart, vostro cognato.» «Per Dio, Treville, mi sto divertendo all'idea della brutta faccia che farà il cardinale. Sarà furioso, ma non mi importa. Sono nel mio diritto.» Quando D'Artagnan fu uscito dal Louvre ed ebbe consultato gli amici su come impiegare le 40 pistole, Athos gli consigliò di ordinare un buon pranzo alla Pomme de Pin, Porthos di prendersi un domestico e Aramis di farsi una bella amante. Il pranzo si svolse il giorno stesso e il domestico servì a tavola. L'uno era stato ordinato da Athos e l'altro fornito da Porthos. Era un piccardo che il vanaglorioso moschettiere aveva assunto proprio quel giorno e in quella circostanza sul ponte della Tournelle, mentre stava sputando nell'acqua facendovi dei cerchietti. Porthos aveva deciso che tale occupazione fosse prova di un carattere riflessivo e contemplativo e se l'era portato con sé senza altre raccomandazioni. L'aspetto imponente di quel gentiluomo dal quale si credette assunto aveva sedotto Planchet, era il nome del Piccardo. Questi provò una leggera delusione quando vide che il posto era già occupato da un altro domestico chiamato Mousqueton e quando Porthos gli ebbe spiegato che il suo tenore di vita, sebbene lussuoso, non poteva consentirgli di tenere due domestici e che perciò doveva entrare al servizio di D'Artagnan. Tuttavia, assistendo al desinare che il suo nuovo padrone D'Artagnan offriva e vedendolo pagare traendo una manciata d'oro dalla tasca, credette la sua fortuna belle fatta e ringraziò il cielo di essere capitato al servizio di un simile creso. Perseverò in tale opinione fin dopo il festino con i cui avanzi si riparò dalle lunghe astinenze. Ma rifacendo la sera il letto del padrone, le chimere di Planchet svanirono. Il letto era l'unico dell'appartamento, composto di un'anticamera e di una stanza. Planchet si coricò all'entrata sopra una coperta tolta dal letto di D'Artagnan e di cui questo dové fare a meno. Dal canto suo, Athos aveva un servitore che aveva addestrato in modo specialissimo, si chiamava Grimaud. Era quanto mai taciturno, quel degno signore, parliamo di Athos, ben inteso, da 5 o 6 anni viveva nella più stretta intimità con i compagni Porthos e Aramis, e costoro si ricordavano di averlo veduto sorridere spesso, mai però l'avevano udito ridere. Le sue frasi erano brevi ed espressive, dicevano sempre ciò che volevano dire, niente di più, niente abbellimenti, niente fronzoli, niente arzigogoli. La sua conversazione era un fatto senza nessun episodio. Benché Athos avesse appena 30 anni e fosse molto bello fisicamente e spiritualmente, non gli si conoscevano amanti. Non parlava mai di donne. Consentiva però che se ne parlasse in sua presenza, quantunque si capisse facilmente che quel genere di conversazione a cui partecipava soltanto con frasi amare e apprezzamenti misogini, gli era sommamente sgradevole. Il riserbo, la selvatichezza, il mutismo ne facevano quasi un vecchio. Per non derogare da queste abitudini, aveva quindi avvezzato Grimaud a ubbidirgli a un semplice gesto o a un semplice moto del labbra. Non gli parlava che nei casi estremi. Un vecchio adagio dice «Tale padrone, tale servo». Passiamo dunque dal servitore di Athos al servitore di Porthos, da Grimaud a Mousqueton. Era costui un normanno, a cui il padrone aveva mutato il pacifico nome di Boniface, in quello assai più sonoro e bellicoso di Mousqueton. Era entrato al servizio di Porthos a condizione di essere soltanto vestito e alloggiato, ma in modo splendido. Non pretendeva che 2 ore al giorno per dedicarsi a un mestiere che doveva bastare a provvedere alle altre sue necessità. Porthos aveva accettato il patto che gli andava a pennello. Faceva tagliare a Mousqueton dei farsetti dai suoi abiti smessi e dai suoi mantelli di ricambio e grazie a un sarto molto intelligente che gli rimetteva a nuovo gli indumenti rivoltandoli, Mousqueton faceva, al seguito del padrone, una magnifica figura. Il lacchè di Aramis, di cui pensiamo di aver descritto a sufficienza il carattere, che d'altronde, come quello dei suoi amici, potremo seguire nel suo sviluppo, si chiamava Bazin. Siccome il suo padrone sperava di entrare un giorno negli ordini, egli vestiva sempre di nero, come conviene al servitore di un ecclesiastico. Era un tipo del Berry, tra i 35 e i 40 anni, mite, pacifico, grassottello, che occupava le ore che il padrone gli lasciava libere a leggere libri di devozione. Per il resto muto, cieco, sordo e di una fedeltà a tutta prova. Athos alloggiava in Rue Férou, a due passi da Luxembourg. L'appartamento era composto di due camerette, arredate con molto gusto, in una casa mobiliata la cui padrona, ancora giovane e ancora bella, gli faceva invano gli occhi dolci. Pochi resti di un grande splendore passato brillavano qua e là alle pareti della modesta abitazione. C'era, per esempio, una spada riccamente damaschinata che, a giudicare dalla fattura, risaliva al tempo di Francesco I, la cui sola impugnatura, tempestata di pietre preziose, poteva valere 200 pistole. Mai, anche nei momenti di maggiore miseria, Athos aveva voluto impegnarla o venderla. Quella spada era stata per molto tempo il sogno di Porthos, che avrebbe dato 10 anni della sua vita per possederla. Una volta che aveva appuntamento con una duchessa, tentò perfino di farsela prestare da Athos, ma questi, senza aprir bocca, si vuotò le tasche, radunò tutti i preziosi, borse, alamari e catene d'oro e li offrì a Porthos, ma la spada, gli disse, stava fissa al suo posto e l'avrebbe lasciato solo quando il suo proprietario avesse abbandonato quell'abitazione. Oltre alla spada c'era un ritratto raffigurante un signore dei tempi di Enrico III, vestito con somma eleganza, che portava l'ordine dello Spirito Santo, ritratto che aveva con Athos certe rassomiglianze e lineamenti, una certa aria di famiglia, che indicava che quel gran signore, cavaliere degli ordini del re, era un suo antenato. C'era poi un cofanetto, splendido lavoro di oreficeria, con uno stemma uguale a quello della spada e del ritratto, al centro del caminetto, stonando terribilmente con gli altri soprammobili. Athos portava sempre con sé la chiave di quel cofanetto. Ma un giorno che l'aveva aperto in presenza di Porthos, questi aveva potuto accertarsi che conteneva soltanto lettere e carte. Lettere d'amore e carte di famiglia, senza dubbio. Porthos abitava in un appartamento vastissimo, dall'apparenza sontuosa, in Rue du Vieux Colombier. Ogni volta che con qualche amico passava davanti le sue finestre, a una delle quali c'era sempre Mousqueton in alta livrea, Porthos alzava il capo e la mano e diceva: «Ecco la mia dimora!» Ma non lo si trovava mai in casa. Non invitava mai anima viva a salirvi e nessuno poteva farsi un'idea di quali ricchezze effettive racchiudesse quella magnifica apparenza. Aramis stava in un appartamentino formato di un piccolo salotto, di una stanza da pranzo e di una da letto, la quale, posta come il resto dell'alloggio a pian terreno, dava su di un giardinetto fresco, verde, ombroso e impenetrabile agli occhi del vicinato. Di D'Artagnan sappiamo come fosse alloggiato e già abbiamo fatto conoscenza del suo servitore, Mastro Planchet. La vita dei quattro giovani era gaia. Athos giocava e sempre senza fortuna, però non si faceva mai prestare un soldo dagli amici, sebbene la sua borsa fosse sempre a loro disposizione. E quando aveva giocato sulla parola, mandava a svegliare il creditore alle 6 del mattino per pagargli il debito del giorno prima. Porthos aveva degli alti e bassi. Se vinceva, appariva insolente e munifico. Se perdeva, spariva completamente per qualche giorno, dopodiché ricompariva con il viso tirato e il muso lungo, ma con il denaro in tasca. Aramis non giocava mai. Era davvero il peggior moschettiere e il peggior commensale che esistesse. Doveva sempre sbrigare qualche faccenda. A volte, nel bel mezzo di un pranzo, quando ognuno, eccitato dal vino e infervorato dalla conversazione, credeva di potersi fermare a tavola ancora 2 o 3 ore, Aramis guardava l'orologio, s'alzava con un grazioso sorriso e si congedava dalla brigata per andare, diceva lui, a consultare un causidico con il quale aveva appuntamento. Planchet, il domestico di D'Artagnan, sopportò nobilmente la sua buona sorte. Riceveva 30 soldi al giorno e per un mese tornò a casa allegro come un fringuello e affabile verso il padrone. Quando il vento dell'avversità cominciò a soffiare sulla casa di Rue des Fossoyeurs, e cioè quando le 40 pistole del re Luigi XIII furono esaurite o presso a poco, Planchet cominciò le lamentele che Athos giudicò nauseabonde, Porthos indecenti e Aramis ridicole. Il primo pertanto consigliò a D'Artagnan di licenziare il gaglioffo. Porthos voleva che prima lo si bastonasse e Aramis sostenne che un padrone doveva sentirsi dire solo dei complimenti. «Fate presto a dire», replicò D'Artagnan. «Voi, Athos, che vivete con Grimaud senza aprire bocca, gli proibite di parlare e quindi non avete mai con lui degli alterchi. Voi, Porthos, che conducete una vita lussuosa, siete un dio per il vostro servitore Mousqueton. E voi, poi, Aramis, che sempre distratto dai vostri studi teologici, ispirate un rispetto profondo a Bazin, che è un uomo mite e pio. Ma io, che non ho appoggi e non ho mezzi, che non sono moschettiere e neppure guardia, io come faccio a ispirare affetto, timore o rispetto a Planchet?» «È grave», risposero i tre amici. «È un problema di amministrazione domestica. Per i domestici è come per le donne. Bisogna subito metterli al loro posto». D'Artagnan ci rifletté e decise di bastonare Planchet per precauzione, il che fu eseguito con lo scrupolo con cui faceva tutte le cose. Poi, dopo averlo conciato a dovere, gli proibì di lasciare il servizio senza il suo permesso perché, soggiunse, «il futuro non mi tradirà. Sono certo che verranno tempi migliori. Se tu rimani con me, la tua fortuna è fatta. E sono troppo un bravo padrone per compromettere il tuo avvenire accordandoti il licenziamento che mi chiedi». Questo modo d'agire ispirò ai moschettieri un gran rispetto per la politica di D'Artagnan. Anche Planchet ne rimase ammiratissimo e non parlò più di andarsene. I 4 giovani facevano ormai vita comune. D'Artagnan, che non aveva abitudini di sorta perché arrivava fresco fresco dalla provincia ed era piombato in un mondo del tutto nuovo per lui, prese subito le abitudini degli amici. Si alzavano verso le 8 d'inverno, verso le 6 d'estate, e andavano a prendere la parola d'ordine da Monsieur de Tréville e ad annusarvi l'aria che tirava. D'Artagnan, pur non essendo moschettiere, ne faceva il servizio con una puntualità commovente. Era sempre di guardia perché teneva compagnia di continuo a quello dei suoi 3 amici che fosse di turno. Al palazzo dei moschettieri tutti lo conoscevano e lo consideravano un buon camerata. Monsieur de Tréville, che fin dal primo momento l'aveva apprezzato e sentiva per lui un vero affetto, non smetteva di raccomandarlo al re. Un bel giorno il re ordinò al cavaliere des Essarts di assumere D'Artagnan come cadetto nella sua compagnia delle guardie. Questi indossò con un sospiro quella divisa che, a prezzo di 10 anni di vita, avrebbe voluto scambiare con la casacca da moschettiere, ma Monsieur de Treville promise tale favore dopo un noviziato di 2 anni. Noviziato che d'altronde si sarebbe potuto abbreviare se si fosse presentata per D'Artagnan l'occasione di rendere qualche servigio al re o di compiere qualche brillante impresa. Con tale promessa D'Artagnan si ritirò e fin dall'indomani cominciò il servizio.